Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e bentornati alla finestra sul cortile, una delle ultime puntate del 2009. Sta per finire un anno e finisce anche un decennio, i primi 10 anni del terzo millennio. Insieme a tante novità positive e negative e a molti più problemi insoluti, e questo decennio ci lascia in eredità anche una serie di parole che sono entrate nel nostro vocabolario. Per esempio asse del male, oppure lodo, oppure tsunami o Facebook. Ma quali sono queste parole chiave? Quali sono più simboliche, rappresentative del decennio che sta per finire? Altre parole hanno semplicemente cambiato di significato. Per esempio, cosa significa oggi la parola amico, amicizia? Di questi e di altri temi parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma intanto sentiamo cosa prevede il sommario di oggi. Inghilterra. Le parole possono riassumere il significato di un'epoca. Tsunami, Twitter, 11 settembre sono tra quelle chiave del primo decennio del 2000. Spagna. Orgogliosi a prescindere. Gli spagnoli e il loro senso d'appartenenza. Francia. Nicolas Sarkozy ha origini aristocratiche. Dominique de Villepin no. Lo sostiene uno specialista in titoli nobiliari che ha analizzato oltre 10.000 famiglie francesi. America. Come è cambiato il concetto di amicizia al tempo di Facebook? Germania. Una mostra illustra come la propaganda nazista cercò di impossessarsi del Natale. Brasile. La pornografia è cultura? Il presidente Lula vuole offrire ai lavoratori più indigenti un voucher per libri e biglietti per cinema, teatro e concerti. Vale anche per le riviste porno? Può una parola riassumere il senso, lo spirito di un decennio? È quanto si domanda BBC News, che ha lanciato tra i suoi lettori una specie di concorso, cioè indicate quali sono le parole, a vostro avviso, più rappresentative del decennio che sta per finire. E le prime risposte sono state date appunto da Susie Dent, che così racconta una serie di tira fuori insomma una serie di parole che a suo avviso sono particolarmente significative del decennio appena trascorso, che tra l'altro nei paesi di lingua inglese è stato ribattezzato Noughties. Si dice gli 80s per dire gli anni 80, si dice i 70s per dire gli anni 70. Noughties è un gioco di parole che vuol dire il decennio cattivo, e in effetti è un decennio in cui abbiamo visto purtroppo molte cose che avremmo preferito non vedere e non vivere. Non a caso la lista delle parole chiave si apre con 11 settembre, 9-11 in inglese, ma c'è poi asse del male, c'è la grande recessione, c'è il debito tossico, e avanti con le sciagure che hanno contraddistinto i 10 anni che stanno per fortuna per finire. Speriamo che i prossimi ci riservino delle parole un po' più positive. Poi ci sono naturalmente tutte le novità in campo tecnologico e soprattutto nel campo dei social networks, delle comunità virtuali. Pensiamo a Twitter, che ha dato luogo a tutta una serie di parole derivate come i twitterati, cioè tutti coloro che usano Twitter. C'è poking, per esempio, che è un verbo che si usa molto su Facebook, che vuol dire letteralmente dare un colpo, una gomitata, ma può assumere anche significati più pesanti, come avere un rapporto sessuale, ma di fatto poi su Facebook significa fare un avance a qualcuno degli amici collegati nel social network. E poi naturalmente c'è l'influenza suina, che è quella che in queste settimane ci fa stare con il fiato sospeso. Ecco, ma intanto, visto che parliamo di parole, abbiamo in linea qualcuno che di parole se ne intende davvero, Alessandro Bergonzoni, al quale diamo il benvenuto nella nostra trasmissione. Salve, eccoci. Grazie di essere con noi, Bergonzoni, comico, scrittore, lo conoscete tutti, autore, attore di teatro e anche artista, è un vero funambolo della parola, insomma, un creativo del linguaggio, e quindi con lui potremmo cercare di arricchire, insomma, questo inventario che ha tentato di fare la BBC con delle parole più italiane. Ecco, secondo lei quali parole resteranno nei dizionari come tipiche di questo decennio? Non so, a me mi viene in mente la parola lodo, ecco, visto che queste... Ma sì, meglio che resti lodo piuttosto che Alfano, però sicuramente quello che resta è la mancanza di pensiero, secondo me. Sì. È il bisogno di parlare sempre di parola, di immagine, di parlare mai di fantasia. Mi interesserebbe più dire quelle che andrebbero messe, immaginazione, ecco. Altro. E mi piacerebbe, per esempio, l'influenza A, intesa l'influenza altrui, nel senso condizione, vedere quanto ci condiziona l'influenza altrui, è internos, la parola che mi piacerebbe è internos, cioè, che è molto meglio di internet. Cioè internos nel senso di rapporti, insomma, tra le persone, insomma. Che restino tra di noi, quasi segretare, no, ma segretare sì, segreto vuol dire buttare fuori, e invece tenere segreto è molto bello, mi piacerebbe restasse mistero, restasse inconscio, non immagine, non condivisione, non informazione, mi piace più la parola deformazione, deforming. Ecco, ma per esempio un'altra parola che purtroppo anche questa ha un significato negativo è la parola respingimento. Ecco, lei quale parola invece vorrebbe? Attrazione, attraente, oppure apparire, ma apparire non da un punto di vista mi faccio vedere e basta, ma apparire in un posto, pensiamo all'apparenza, dicono che l'apparenza è brutta. Che è il contrario di sostanza. Poter essere a Bologna ed apparire a Napoli. Certo, ecco, che l'apparenza, si dice che l'apparenza inganna invece. Ecco, l'apparenza non inganna, è come un colpo in canna, può alle volte far sparare, ecco, piuttosto invece che sparire. C'è questo rapporto apparente, ma dico, tra le parole e il pensiero, ma se non c'è pensiero non c'è parola. Ci terrei a dire questo, noi vediamo sempre la punta dell'iceberg, che sono le parole, e il pensiero che c'è dietro? Ecco, in effetti dal punto di vista proprio mediatico il linguaggio si è molto impoverito, cioè anche, e questo è una... Ma perché si è impoverito il pensiero? Ecco, è un'autocritica che dovremmo fare anche noi come operatori dell'informazione, perché facciamo sempre gli stessi titoli, diciamo sempre le stesse battute, sempre gli stessi slogan. Allora il problema non è la novità, ma la creazione, siccome ecco. Però parliamo di creatività e diventiamo pubblicitari, la creazione è inventare da zero, creare, e questa è la grande potenza. A me interessa poco che restino le parole, mi interessa quali pensieri restano, e la parola è il pensiero, e il pensiero è come un siero del pensare, come qualcosa che ti entra in vena e ti permette di avere un grande anticorpo contro quello che è il banale è pericolosissimo, è inquinante, molto molto velenoso. Ecco, il contrario, insomma, di un'iniezione letale, un'iniezione vitale, insomma. vitale, e quando parliamo di vita intendiamo anche i fianchi, quando una persona mette le mani sui fianchi e dice è vita questa, perché noi pensiamo sempre solo al corpo, ma esiste anche la parte che non si vede, ecco, l'invisibile sarebbe la meraviglia della parola che potrebbe restare nel futuro, invisibile, incredibile, incommensurabile. Ecco, quali sono le parole che lei, i neologismi, diciamo, che lei ha creato nelle sue, nel suo teatro, insomma, nei suoi sketch, nelle sue opere, di cui va più fiero, insomma, negli ultimi tempi? Sicuramente è una sul tempo, il tempo vola e noi no, incredibile, sarebbe se noi volassimo, il tempo no, gli uomini sarebbe, il cielo sarebbe pieno di uomini con gli orologi fermi. Mi piace quest'idea del pensare al tempo, ma come neologismo sì. Vero e proprio, anche credulo e incredulo, il più grande problema è la credulità, non l'incredulità. I fermi di mente per me sono molto più pericolosi degli infermi di mente. Ecco, mi piace pensare all'idea della fermezza come staticità, Ho molta paura delle persone spente. Con la lampada di Aladino mi piacerebbe illuminare gli spenti. Ecco, speriamo, insomma, che il prossimo decennio ci porti un po' più di illuminazione e di immaginazione come quella di cui Bergonzoni da sempre prova e con cui ci diverte e ci allieta. Grazie Bergonzoni, a presto. Grazie a voi, buon Ciao. Lavoro. E restiamo in tema di dizionario. La parola orgoglio, secondo Elvira Lindo, va presa con le molle, perché il significato etimologico di orgoglio è arroganza, vanità, eccesso di stima per se stessi. E questa parola viene abusata oggi, per esempio, da gruppi sociali o razziali o nazionali o ideologici. Pensiamo anche al Gay Pride o a manifestazioni di questo tipo, e secondo Elvira Lindo, nel caso degli spagnoli, è soprattutto l'orgoglio locale, quello di cui bisognerebbe liberarsi, perché è secondo la giornalista del País un elemento negativo del carattere spagnolo. Certo, noi italiani non pecchiamo di orgoglio, siamo anzi bravissimi ad autoflagellarci, però ultimamente stiamo anche noi riscoprendo una forma di orgoglio locale. Purtroppo è quello del campanile, della regione, della Padania, delle piccole patrie, non quello nazionale. Dalle parole ai nomi, anzi ai cognomi, uno specialista di araldica e di titoli nobiliari francese, Nicolas Philippe Piot, si è messo alla caccia dei veri nobili francesi. Ha esaminato ben 10.000 nomi e cognomi di Francia dagli elenchi telefonici d'Oltralpe e ha cercato di ricostruire la genealogia della famiglia. Ha scoperto che molte persone con un nome apparentemente nobiliare, come per esempio De Villepin, non sono affatto di origini nobili, mentre al contrario il presidente francese Sarkozy de Nagy-Boscard è assolutamente di sangue blu, perché discende da antenati ungheresi che ricevettero i titoli di nobiltà dal re Ferdinando II nel settembre 1628 a Vienna. Quindi, come diceva Totò, nobili si nasce e io modestamente lo nacqui. La finestra sul cortile. Dagli amici, dice un vecchio adagio, mi guardi iddio. Ma quali amici? Cosa significa amicizia nel mondo contemporaneo? Se lo domanda William Derijevich sul The Chronicle of Higher Education, la rivista americana destinata agli accademici e che spesso offre delle riflessioni di respiro su temi che riguardano un po' tutti, non soltanto gli accademici. Per esempio, appunto, il tema dell'amicizia. Scrive Derijevich che viviamo in un tempo in cui l'amicizia è diventata tutto e il contrario di tutto, tutto e niente, perché ormai si parla di amicizia anche a sproposito. Per esempio, i fidanzati si chiamano boyfriend e girlfriend, gli marito e moglie dicono di essere l'uno per l'altro gli amici migliori, perfino i genitori vogliono essere amici dei loro figli. E poi non parliamo dell'inflazione del termine amico dovuta al fenomeno Facebook, per cui tu collezioni un gran numero di amici, tra virgolette, e più amici hai, più il tuo status sulla rete si eleva, diventi importante. In pratica, insomma, da un rapporto, come era nell'antichità, come è stato nel Rinascimento e come è stato poi, insomma, nell'età moderna, un rapporto significativo tra due o più persone, è diventato semplicemente un feeling l'amicizia, un modo per uscire dalla solitudine delle nostre caverne elettroniche. Poi diventa anche una forma di esibizionismo, per cui su Facebook si raccontano i fatti propri a perfetti sconosciuti che poi li commentano pure. E poi l'altro fenomeno che Derijevich commenta su The Chronicle è il fatto che si è soprattutto tra le giovani generazioni l'amicizia l'amicizia è diventata sempre di più un fatto di gruppo, un fatto collettivo, quasi potremmo dire un fenomeno di branco. Ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione al nostro ospite, Andrea De Carlo, grazie di essere con noi. Mi fa piacere essere qua. Andrea De Carlo, che è uno scrittore che tutti conoscete, citiamo i suoi romanzi più recenti, Giro di Vento, Mare delle Verità, Durante, e soprattutto, visto che è stato riedito recentemente a 20 anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, Due di Due, che è proprio la storia, no, di due amici, due compagni del Berché, di un liceo milanese, che vivono il 68 e poi le loro strade si biforcano, sì. No? Quindi è proprio la storia di un'amicizia molto diversa da questo tipo di amicizia di cui parla il Chronicle, raccontando dei rapporti di Facebook. La storia di Due di Due è proprio una storia di due amici che si trovano miracolosamente in quella combinazione di similitudini e differenze che credo facciano le grandi amicizie. E il loro trovarsi poi è la vera svolta nella loro vita di adolescenti, e poi è una svolta che influenza poi tutto quello che succede più avanti. La storia di Due di Due copre due decenni, 20 anni della vita dei due protagonisti. E ma quali anni, insomma, no? Gli anni più caldi, insomma. Caldi, perché poi si incontrano negli anni 60, quando hanno intorno ai 16 anni, e poi arrivano ad essere degli uomini ormai adulti, insomma, che con delle vite abbastanza formate. Ma sono ancora amici dopo? Sono amici, ma come tutte le grandi amicizie, è un'amicizia fatta anche di allontanamenti, di ritrovamenti, di conflitti. Certo. Il punto credo che sia proprio questo, che il rapporto di amicizia, quando è intenso, è autentico, è un rapporto molto esigente. E in realtà è un rapporto che richiede un enorme investimento di energia, di attenzione, di passione, di tempo. Io non so, uno dei primi romanzi che mi hanno veramente appassionato all'idea stessa del romanzo è stato I Tre Moschettieri di Dumas. Certo. E quello era proprio la storia di un'amicizia sconvolgente. Tutti per uno. E appunto, cioè l'idea proprio di questa unione così forte che trascende poi qualunque legge, qualunque altro tipo di obbligo morale, no? È proprio la fusione totale di intenti, di condivisione. E credo che quello sia un ideale che a me personalmente è rimasto dentro, nel senso che io continuo a cercare, ma certo, come tutti gli ideali, è facile che vada incontro a delusioni, che si scontri con una realtà un po' meno nobile, meno appassionata. Certo, e com'è cambiato il concetto di amicizia, per esempio, nelle giovani generazioni, visto che lei ha una figlia, no? Di cui ha parlato anche in un romanzo, è anche un personaggio dei suoi romanzi. E poi ho anche tanti lettori giovani, anche più giovani di mia figlia, nel senso che ci sono lettori, in particolare fra l'altro lettori proprio di Due di Due, che sono magari sedicenni di oggi. E io devo dire, quel tipo di giovane è un giovane che appunto smentisce l'idea che si possa ragionare per categorie, no? Sì. Non ho mai pensato molto ai giovani come a una categoria, come fanno le persone del marketing, per esempio, che cercano di piazzare i loro prodotti e coltivano anzi l'idea di un gregge di giovani. Ci sono sicuramente dei giovani che sono ancora oggi esigenti, critici e sono anche alla ricerca di un'amicizia intensa. Vera, ecco. Vera, difficile, scomoda e anche creativa. Poi è vero che si sono diffuse delle forme di amicizia che corrispondono a quello che un tempo noi chiamavamo la buona conoscenza, no? Sì. Come diceva, un conoscente, un caro collega, un compagno di studi. Ma c'era una differenza fra quello e un amico, no? A volte c'era un abisso addirittura. Oggi mi è capitato di incontrare persone che parlano di amici come se veramente ne disponessero in modo illimitato. Certo, addirittura poi ci sono gli uomini di Stato che dicono che sono grandi amici di Vladimir Putin, oppure, no? Certo. È vero, non facciamo nomi, ma insomma. Ecco, esiste ogni tipo di equivoco nell'amicizia, no? Il che fa pensare che sia anche appunto un termine che è un po' svalutato a dir poco. Bene, noi ringraziamo Andrea De Carlo e auguri per il suo lavoro. Piacere. A presto allora. A presto. Bossoli invece di palle di Natale. Queste le decorazioni in voga tra i soldati tedeschi nella Prima Guerra Mondiale, che venivano equipaggiati per le festività anche con alberelli pieghevoli adatti al trasporto. Perché benché si fosse in guerra, il soldato prussiano trovava il tempo anche di pensare alla religione, così almeno piaceva alla propaganda militare di Berlino. Ma dal 33 in avanti, con il Terzo Reich, al Natale andò anche peggio, come si scopre dalla mostra Altro che Natale, in corso fino al 17 gennaio nel Centro di Documentazione sul Nazismo di Colonia, dedicato alla strumentalizzazione nazista della cerimonia del Santo Natale. Accantonato il fatto che Gesù fosse un ebreo, sotto Hitler, per decorazione nel periodo dell'Avvento si sfoggiavano insegne runiche, svastiche a profusione, tutte per celebrare la nascita di un semidio dalle fattezze nordiche. Un andazzo che si arrestò tuttavia con l'inizio della guerra nel 1939, perché il kitsch generato dall'incontro tra nazismo e Gesù bambino risultava poco bellico. La pornografia può essere considerata cultura? È una discussione, questa, in corso in Brasile, di cui parla Juan Arias sul País. La ragione di questa curiosa disputa è una legge introdotta dal presidente Lula, che ha deciso di stanziare un buono cultura di 50 reales, 18 euro, per le fasce più povere della popolazione, per i lavoratori che guadagnano meno di 800 euro al mese, perché si possano acquistare qualsiasi cosa di carattere culturale, per esempio andare al cinema, a teatro, a un concerto o comprare un libro. E allora al Parlamento brasiliano qualcuno ha proposto di introdurre tra le cose acquistabili con questi buoni anche le riviste pornografiche, visto che ci sono milioni di villaggi in questo grande paese che non hanno librerie, però ci sono delle edicole dove si possono acquistare periodici, riviste e anche appunto riviste pornografiche. Beh, del resto ci sono in circolazione nelle librerie, non soltanto brasiliane, libri e romanzi che valgono molto meno dal punto di vista culturale di una rivista porno. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.